Oggi qua si incontrano tre grossi temi che hanno aleggiato un po' durante quest'anno in dibattiti sotterranei, in dibattiti pubblici e in dibattiti giornalistici. E i tre temi sono essenzialmente il primo di grande scenario di riflessione sulla mondializzazione dell'economia, la globalizzazione della società e la transizione dal fordismo al post-fordismo. Direi che tutti quanti, per ruolo, funzione, lavoro, perché la subiscono, perché stanno in determinate situazioni in cui si confrontano con questi processi, abbiamo ragionato intorno a questo tema. Secondo passaggio. Ragionando intorno a questo tema, uno dei nodi che è emerso di discussione è stato quello che riguarda ad esempio lo Stato-Nazione. Sullo Stato-Nazione, questo mi pare il secondo punto, tra i vari pensatori, operatori culturali e persone che stanno dentro i luoghi ci sono varie differenti interpretazioni e quindi mi pare che questo sia un secondo punto molto spesso ad esempio ricordato e sollecitato da Burgio alla nostra attenzione o alla mia attenzione, che dà secondo lui per troppo già risolto il problema dello Stato-Nazione. Quindi questo è uno dei secondi temi su cui lavorare. Il terzo tema che riprecipita qui, e anche questo non è un dato secondario, perché ricordavo prima con Moroni che un anno fa, mi pare, eravamo di nuovo qui riuniti a ragionare intorno al famoso scazzo di Arezzo, in cui comunque il problema e l'oggetto del contendere era intorno a questa parola chiave che era socialità. E il terzo tema quindi è la socialità intesa come radicale proiezione di sé e già produzione di conflitto, oppure come pre-costruzione di reti e di relazioni che poi vanno al conflitto e alla politica. Questo mi pare che sia il terzo tema. Ed il quarto, che fa da sfondo però a questo grosso nodo di riflessione intorno al problema della socialità, riguarda questa parola chiave dell'impresa sociale o del terzo settore, rispetto al quale anche qui le posizioni sono differenti per pratica, per interpretazione, eccetera. Quindi mi pare che i quattro grandi temi sono questi: mondializzazione dell'economia da una parte e globalizzazione della società con il suo correlato di depotenziamento delle appartenenze, dei luoghi di costruzione delle appartenenze, del conflitto, delle identità, e poi in sequenza il concetto di Stato-Nazione in questa transizione, il problema della socialità e, se volete, anche estremizziamo pure il termine a destra, usando queste categorie, della solidarietà, usiamo pure questo termine, e poi il discorso dell'impresa sociale. Questi sono i quattro temi su cui siamo qui oggi a ragionare. Io faccio solo una scaletta introduttiva a questo punto e poi dopo mi riservo di intervenire, però io direi una cosa. Sul tema della mondializzazione dell'economia e della transizione dal fordismo al post-fordismo, come modello produttivo, mi par di capire che gli elementi di analisi, pur assumendo vari punti di vista e vari punti di osservazione, sono in parte coincidenti. Ne cito solo ad esempio due. L'analisi di Revelli, che è molto segnata, ma non in negativo ovviamente, dall'essere un'analisi torinese, col suo... Anche qui le parole hanno un senso e un significato, lui usa spesso il termine toyotismo e quindi con l'analisi del toyotismo intorno al ciclo e alla crisi della company town, si legano molto all'analisi di Christian Marazzi intorno al tema del lavorare comunicando, perché poi Il posto dei calzini, che è il libro di Christian che tutti quanti in parte abbiamo letto, e almeno do per scontato che molti l'abbiano letto, è un bellissimo libro, essenzialmente ragiona intorno a questo emergere di questa funzione dentro il nuovo processo del capitalismo, che è il lavorare comunicando. Forse un po' meno osservata, e c'è da ragionare della cosa che un po' ci intriga, è invece la tendenza alla società globale, con le sue implicazioni, quando dico società globale, di grande mutamento del sistema della politica, del sistema della rappresentazione, e qui torniamo al nodo dello Stato-Nazione. Io credo che mondializzazione dell'economia non possa essere scissa dalla tendenza alla società globale. La globalizzazione economica porta con sé dei forti elementi di tendenza alla società globale, dove si ascrivono, secondo me, tutti quegli elementi di dissolvenza, di appartenenza, comunità, dimensione locale e dimensione nazionale. Su questo io cito solo tre cose o quattro. Non crediamo di essere solo noi seduti intorno al tavolo che parliamo di queste cose, anzi, devo dire che se riprendessimo l'utile sforzo intellettuale di guardare un attimo, una volta si diceva cosa produce il nemico, non credo che sia efficace come terminologia, ma oggi non è in questi termini, beh, io credo che almeno vi cito due cose su cui sto ragionando io. Questo rapporto di De Aglio, l'economista su cui abbiamo discusso molto rispetto alla neoborghesia, sul capitalismo difficile, che è un rapporto sul capitalismo italiano nella mondializzazione dell'economia, in cui De Aglio segnala tre cose. La prima, che siamo passati da istituzioni sovranazionali che governavano gli scambi delle merci, il GATT tanto per capirci, a istituzioni sovranazionali, il WTO, il World Trade Organization, la World Trade Organization, che non solo verifica lo scambio delle merci e, diciamo così, concorda regole per lo scambio delle merci, ma concorda regole per lo scambio dei servizi. E questa è un'implicazione amplissima rispetto al discorso che fa soprattutto Christian, perché servizi significa lavorare comunicando, significa accompagnare la merce dal suo momento di uscita dal ciclo produttivo verso la commercializzazione in mercati sempre più turbolenti, come dice Christian. Quindi lui segnala questo. Seconda cosa che lui segnala in questo rapporto, dice che l'accordo più grosso firmato tra gli Stati Uniti e la Cina non è un accordo sulle merci, ma è un accordo sul copyright, e qui credo che farà piacere a Conchetta, che ragiona molto su queste cose, soprattutto la redazione su Decoder, in cui essenzialmente si incomincia a dire che gli accordi internazionali riguardano anche lo scambio immateriale delle risorse del produrre. Terza cosa che lui segnala, riprendendola dall'Economist, è la tendenza alla nascita di questa che loro chiamano l'impresa arcobaleno, intendendosi con questa metafora, punto primo, la tendenza alle coalizioni del capitalismo, un capitalismo coalizionale, coalizioni per difendersi e coalizioni per offendere, cioè per attaccare. Però essenzialmente oggi il capitalismo, se è capitalismo di coalizione. Da un'altra parte, la metafora dell'arcobaleno significa l'impresa che fa i ponti fra più stati, che mette in connessione, cioè quindi le interconnessioni, la società si tiene attraverso interconnessioni che vengono stabilite dalle imprese. In questo, segnala De Aglio, ed è uno dei punti, secondo me, di cui dobbiamo discutere oggi, c'è una difficoltà dello Stato-Nazione che viene percepito dalle élite del capitalismo italiano, non dalla Lega, dalle élite del capitalismo italiano, troppo grande per il governo dei processi a scala regionale, troppo piccolo per le dimensioni sovranazionali. Quindi, essenzialmente, credo che uno degli elementi di riflessione intorno alla problematica dello Stato-Nazione non viene solo dal fatto, stiamo facendo questo seminario a Milano e quindi sappiamo benissimo che questa è questione posta anche dalla Lega Lombarda, ma viene anche all'interno di questo ragionamento. Quindi difficoltà dello Stato-Nazione. Ci aggiungo di mio che quello che emerge, e mi pare antropologicamente una cosa che agisce in profondo è che questo meccanismo della mondializzazione, della globalizzazione, separa lo spazio dal luogo in questo processo. Non c'è più unità tra la dimensione spaziale e la dimensione del luogo, soprattutto rispetto al produrre, ma non solo rispetto a questo. La separazione dello spazio dal luogo è una dimensione antropologica in cui noi oggi come oggi, con cui noi oggi dobbiamo fare i conti. Non è sufficiente essere territorializzati per contare, per organizzarsi e per confliggere. Non è sufficiente essere territorializzati. C'è un problema di separazione dello spazio dal luogo. E questa implicazione è un'implicazione forte per chiunque fa del luogo l'unico luogo che dà identità e che produce identità. E qui in parte una polemica garbata ma aperta, ad esempio, con la cultura del centro sociale come spazio totalmente autoreferente, se lo è. Spazio e luogo che vengono separati. Una seconda cosa che segnalo, sempre per dire che non siamo solo noi che ci occupiamo di queste cose, che non fa mai male, non fa male leggere l'ultimo numero di Liberal, che può fare anche un po' schifo, però lì c'è un articolo di Attali, che sapete tutti chi è, Banca Europea di Investimenti ad Est, consigliere di Mitterrand, eccetera, eccetera. E Attali dice essenzialmente che siamo di fronte all'apparire di una superclasse. Una superclasse che emerge essenzialmente da una proletarizzazione della classe media, che viene sempre di più proletarizzata, dotata di due cose, di capitale monetario nomade e di capitale intellettuale. Dice, ci dobbiamo confrontare con l'emergere di una superclasse che tiene e che si interconnette a livello mondiale. I governi nazionali devono far di conto con l'emergere di questa funzione strategica. Adesso io non la faccio lunga, lui dice anche che questa è una superclasse ormai che si incomincia a delineare nella globalizzazione dell'economia, con funzioni ben precise, con una grande capacità di nomadismo, per usare un termine anche questo a noi noto, e quindi Attali dice questo è il punto. Io mi limito a dire anche qui, la mondializzazione dell'economia segnala l'aumento delle funzioni necessarie per commercializzare e vincere in mercati sempre più turbolenti. Diventano strategiche queste funzioni. La superclasse sta dentro lì, sta nella produzione di queste funzioni. Però io credo che se usciamo solo da questi racconti che ci vengono fatti, ma io credo che dobbiamo interrogarci anche sul fatto che siamo in presenza di un mutamento profondo nella composizione sociale. E qui io pongo una mia posizione. Ho l'impressione che la sinistra socialdemocratica, intendendosi per sinistra socialdemocratica, in parte anche la sinistra europea su questo, non gestisce questa crisi di transizione e non ha gli strumenti per gestire questa crisi di transizione. Lo dico schematicamente, proprio anche per favorire probabilmente un dibattito e una discussione, ho l'impressione, almeno da quello che leggo io, che ci sono due posizioni. Una prima posizione, regole per il capitalismo mondiale. Dice, facciamo regole per la borsa, regole per il mercato, regole per il capitalismo mondiale, fino ad arrivare a ragionare oggi, un dibattito aperto intorno alla crisi dell'ONU, il governo mondiale, eccetera, eccetera. Però questo è un tema che viene affrontato attraverso una cultura delle regole. Cioè è sufficiente introdurre delle regole per cui questa dimensione, superclasse, mondializzazione, eccetera, eccetera, è risolta. Boh. Seconda cosa, sempre che secondo me va sottoposta a riflessione, è che l'oggetto che dovrebbe intessere la società e portarla a lottarla per le regole è, per dirla con Habermas, il patriottismo costituzionale. E torniamo al meccanismo dell'identificazione forte con lo Stato-Nazione. Patriottismo costituzionale, tant'è vero che, a me mi ha meravigliato molto, che Habermas alla fine citasse la Corte Costituzionale tedesca come la fonte più alta oggi di difesa e rappresentazione di un pensiero socialdemocratico e progressivo. Devo dire che questo è un dibattito che abbiamo anche in Italia, cioè sotto traccia appare questo dibattito, per cui il discorso della difesa della Costituzione è il momento più alto di contrapposizione nell'attuale fase di transizione. Ecco, io ho l'impressione, da sinistra arrivano queste due proposte, dopodiché se il leader della sinistra fa un giro nel territorio che più è coinvolto da questo processo, che è il nord del paese, abbiamo le cronache di questi giorni, che va dagli operai della Dalmine, che invece di essere sostenitori delle regole del patriottismo costituzionale, gli dicono di non dare i soldi ai terroni. E quindi qui forse qualcosa è cambiato in termini di composizione sociale, di mutamento, bisogna ragionare su questo, però il ceto che dovrebbe essere quello che progressivamente... Tant'è vero che io faccio una provocazione, ho l'impressione che dentro questa grande trasformazione noi, quando dico noi intendo dire anche noi seduti intorno a questo tavolo, e siamo un po' di risulta, perché ho l'impressione che i processi regionali sono molti quotati al mercato della politica più dalla Lega che da noi. Questo bisogna dirlo nella situazione locale attuale, bisogna dirlo, i processi regionali che stanno dentro il grande mutamento della mondializzazione, oggi come oggi in Lombardia, ma non solo, in tutto il nord, pongono per la sinistra la questione della Lega come questione con cui rapportarsi e ragionare, perché sulla dimensione regionale ci stanno loro attualmente, non ci sta una sinistra oggi. E ho l'impressione che Berlusconi o il Berlusconi che verrà, ho citato Liberale, ho l'impressione che il Berlusconi che verrà forse sarà Romiti, per capirci, no? Quando dico, perché mi pare che sia un'operazione forte questa, stanno sui mutamenti che questo grande processo ha provocato nel lavoro. Tendo a dire che se uno dei risultati di questo grande ciclo di transizione è l'emergere del lavoro autonomo nelle sue varie facce, poi su questo torniamo, ho qui l'impressione che di nuovo su questo terreno c'è più una rappresentazione e spettacolarizzazione della destra che un agire e un capire della sinistra. Questi mi paiono elementi su cui interrogarsi rispetto a questa cosa. E su queste cose mi pare che Milano e Torino sono due città emblematiche, nel senso che a Torino ci si sta interrogando su come localmente si possa controllare la delocalizzazione nella mondializzazione. Quella vicina, Torino-Melfi, e quella lontana, Torino-Argentina, per produrre la World Car. Però credo che lì ci sia il problema di capire cosa può la classe per contrastare questo processo. Questo, ho usato ancora questo termine forte, però il problema è come si può partire dal locale e controllare il globale. Tema posto. Io ho l'impressione invece che a Milano non abbiamo la superclasse, ma Milano già è una città che in parte sta dentro questi processi tra locale e globale, con un mutamento profondo della sua composizione. E ho l'impressione che ci sia una città che noi capiamo poco, fatta di tutte funzioni leggere, in cui a Milano si concentra per tutta la Lombardia, ma anche per tutto il nord, la produzione di ricerca, la produzione di consulenza, la produzione di informazione in termini di ciclo di massa, in cui c'è l'intellettualità di massa al lavoro, perché uno dei problemi, secondo me, è il rapporto tra la superclasse delineata da Ctalì e l'intellettualità di massa al lavoro, perché questa dimensione di questa classe che ha le competenze come propria cosa, che si muove, che qualcuno coniuga anche col problema del genere all'intellet, eccetera, eccetera, è un problema che poi può essere vista come un'oligarchia, nella misura in cui ha come capitale nomade il mercato e la finanza. Ma se uno non ha mercato e finanza e ha come unico capitale il proprio sapere e le proprie competenze, sta nel ciclo dell'intellettualità di massa al lavoro. E Milano mi pare più città coinvolta nella sua dimensione centrale da quella che Sergio, e mi spiace che oggi non ci sia, chiama la seconda, il secondo ciclo post-fordista al lavoro, l'intellettualità di massa al lavoro nel ciclo della consulenza. Tant'è vero che Milano ha già espulso nella dimensione di seconda della sua cerchia tutte le funzioni post-fordiste tradizionali. Non sarà un caso che la fiera va lì, non sarà un caso che tutta una serie di funzioni vanno fuori, le funzioni post-fordiste che hanno ancora bisogno di spazio e di raggiungibilità, mentre invece rimane concentrato dentro Milano una composizione di questo tipo. Quanto questa composizione abbia delle implicazioni grosse per quello che avviene in questa città, nei centri sociali, eccetera, eccetera, questo è tutto un discorso aperto. Per chiudere, quindi, io dico che mi pare che il tema destra-sinistra non possa più essere posto nei termini classici, ma avete ricollocato su come ci si pone rispetto all'identificazione tra economia e società, perché la mondializzazione e la globalizzazione della società tendono a fare dell'economia e della società un unico. Io credo che la sinistra è quella che si interroga per impedire questo unico, per impedire che ci sia conoscenza, sentimenti, identità, appartenenze, tutto al lavoro dentro il meccanismo competitivo, dentro il lavorare comunicando, come lo chiama Marazzi, chi resiste a questo processo e chi invece si identifica e dice il problema è semplicemente un po' più di regole e un po' di patriottismo costituzionale, abbiamo risolto il problema. Ho dei dubbi, dico solo che questa è una questione aperta. Ed è aperta e riapre sul problema della socialità, almeno questo è il mio punto di vista, semplicemente perché io ho l'impressione che quello che si delinea è una società che si tiene per interconnessioni vincolanti in cui l'agire comunicativo è sussunto nelle sue funzioni produttive. Quindi la socialità, le relazioni servono per produrre. È dentro un meccanismo di interconnessione che viene dato dall'economico e dall'impresa che fa ponte, eccetera, eccetera. Io dico che a queste interconnessioni vincolanti si contrappongono i beni relazionali, intendendosi tutti quei soggetti che vogliono comunque continuare a comunicare, non solo dentro un meccanismo del produrre, ma dentro un meccanismo della gratuità e della socialità a prescindere dall'economico. Chi fa lavoro terziario sa benissimo cosa intendo dire. Chi lavora in una radio, chi lavora in un giornale sa benissimo cosa voglio dire. Lavori 24 ore e ti interconnetti con tutti perché la tua funzione è quella di produrre alcune cose, alcune conoscenze. E dove hai dei momenti sottratti a questa cosa? E quindi io dico che il problema della socialità è questione aperta. E anche qui mi spiace di nuovo che non ci sia Sergio, quando abbiamo cercato a Milano di fare questa operazione di lumi, che poi non è altro che un tentativo di ragionare su prototipi mentali, come dice Sergio, rispetto alla problematica del lavoro autonomo di seconda generazione, il vero problema è che o riusciamo a inventare prototipi mentali, cioè a fare società rispetto a questa nuova composizione. Gramsci avrebbe detto che manca un blocco sociale, questa è la terminologia gramsciana, il blocco sociale gramsciano era basato sulla classe operaia e sull'impresa, dopodiché il secondo blocco sociale che si è diluito è stato quello della classe media, e la diluizione di questa classe sociale, la classe media, è rappresentata dal leghismo e dalla fine della DC da alcuni grandi punti di vista, e il vero problema è che manca la costruzione di relazioni tra i nuovi soggetti e la nuova composizione sociale che avanza dentro questo meccanismo di produzione. E quindi una delle discussioni che dobbiamo fare, secondo me, va in questa direzione. E quindi per questa dimensione del lavoro autonomo di seconda generazione, che qualcuno coniuga col meccanismo del general intellect, qualcuno coniuga, ad esempio io molto di più, col meccanismo delle partite IVA al lavoro, benissimo, comunque questo è un problema, cioè una società che avanza rispetto a queste cose qua. Ovviamente quando parliamo di queste cose si pensa che noi siamo, o almeno che io sono, perché parlo per me, un apologeta del capitalismo. Non è vero un cazzo, a chi è apologeta del capitalismo? Dire come stanno le cose non credo che essere un apologeta del capitalismo. Poi vedo bene che ci sono problemi ben più complessi che stanno dentro questo, ma il problema di non dirsi la realtà secondo me è una mistificazione ancora più grave di essere apologeti del capitalismo. E allora io so benissimo che ci sono 5 punti di osservazione su cui ragionare, e qui chiudo veramente. Certo, c'è ancora una resistenza forte nella fabbrica, nella grande fabbrica ristrutturata in una dimensione mondializzata. E qui penso ad esempio a Torino, penso ad esempio a residualità che stanno dentro l'Alfa, residualità non in termini soggettivi, residualità in termini di capacità di resistenza, in cui si confligge e si resiste ovviamente su due grandi problemi: come il locale può controllare il globale e come si può stare in una situazione in cui più innovazione non produce automaticamente più lavoro, perché è più commercializzazione non produce automaticamente più lavoro. Primo punto, qui c'è un conflitto di resistenza aperto. Secondo conflitto di resistenza: mondializzazione e globalizzazione portano con sé non il depotenziamento dello Stato-nazione, che potrebbe anche non esserci caro, forse perché il termine patria non ci ha mai battuto molto nel cuore, ma forse un altro termine ci ha sempre battuto molto nella zucca, che è il welfare, che è lo Stato sociale, che era ed è insito e va di pari passo con lo Stato-nazione. E allora qui il problema, la resistenza intorno allo smantellamento del welfare, la lotta per le pensioni in Italia, la lotta per la difesa dei dipendenti pubblici in Francia, la lotta del sindacato tedesco rispetto ai tagli di Kohl, eccetera, eccetera. Anche qui, ecco, io dico questo, c'è stato un dibattito molto aperto in cui ci si può anche scontrare, è questo una residuale lotta che non significa più nulla, di soggetti che non c'entrano nulla, oppure è la prima forma di resistenza alla mondializzazione? Io dico solo una cosa: come si chiude questa partita è vitale per capire la società che verrà. Quindi è importante avere attenzione a queste forme di conflitto, perché è importante capire se la società che verrà è una società aperta o una società chiusa, è una società in cui si avranno diritti oppure no. È importante. Non è certamente il meccanismo di trasformazione del tutto, sono, io li chiamo, fenomeni di resistenza. Poi può essere una terminologia sbagliata da sottoporre a critica. In questo processo l'impresa sociale e il volontariato deve scegliere, per questo sono luogo di osservazione privilegiata. Punto primo, non banale perché sono migliaia. Questo, come sempre in politica o ragionando socialmente, i numeri contano. Ecco, sono migliaia. Però questo potrebbe essere anche assolutamente secondario, perché questa composizione sociale è attraversata da una contraddizione lacerante. Deve scegliere se essere gestione dell'esclusione o conflitto per l'inclusione. Deve scegliere tra queste due cose, se fa conflitto per l'inclusione o se fa gestione dell'inclusione, dell'esclusione. E mi pare centrale. E quindi, lo dico soprattutto a Rossanda che non c'è, quando si dice attenzione a questo processo, non è che si sposa o siamo diventati tutti Don Ciotti, di cui ho anche stima, ma non è qui il problema. Il problema è che non è che siamo diventati né Don Ciotti né tutti volontari, diciamo solo che lì, in questo momento, ci sta una contraddizione lacerante tra gestione dell'esclusione o conflitto per l'inclusione, che l'attraversa, che noi non possiamo non guardare, perché è una dinamica reale in questo processo, dentro lo smantellamento del welfare. Quindi terzo luogo di osservazione. Quarto luogo di osservazione, il meccanismo del lavoro autonomo di prima generazione, che è un meccanismo fondante del ciclo del rapporto tra locale e globale, perché locale e globale avviene attraverso la subfornitura e l'impresa, si diceva una volta, la fabbrica diffusa, che mi pare una delle analisi fondanti rimaste degli anni 70. Attraverso la fabbrica diffusa si riesce ad essere localmente produttivi per andare nel globale. Fabbrica diffusa che sta mettendo al lavoro migliaia di artigiani, piccoli e medi imprenditori nel ciclo della subfornitura, e quindi è centrale ed importante. Quanto questi signori siano solo bastardi evasori fiscali o dei soggetti in crisi dentro la transizione è questione aperta, però io non regalerei tutto questo semplicemente alla gestione della destra politica, tanto per capirci, mi porrei l'interrogativo. Ultima cosa, il rapporto e il conflitto tra la dimensione della superclasse di cui parla Attali e la sua composizione sociale nazionale, usiamo questo termine, che è le migliaia di partite IVA al lavoro. E qui, per essere chiari, le migliaia di partite IVA al lavoro del lavoro autonomo di seconda generazione non sono la superclasse, sono anzi dei soggetti antitetici e in conflitto con la dimensione della superclasse che sta dentro la mondializzazione e la globalizzazione dell'economia. Questi mi paiono i punti su cui sviluppare il ragionamento. Mi accorgo che ho già fatto anche il mio intervento, quindi io mi azzitto e basta. Grazie.